24 mattino di Alessandro Milan. Sono le 7:33 minuti in questo istante, eccoci cari ascoltatori con 24 mattino in diretta fino alle 9 con il nuovo sondaggio di oggi che vi vogliamo lanciare. Oggi parliamo del nuovo Partito Democratico dopo le primarie, dopo la vittoria del segretario Bersani e l'apertura a nuove alleanze. E allora vi chiediamo proprio questo: secondo voi il Partito Democratico, se vuole tornare a essere una forza di governo con i numeri, deve allearsi e con chi? Vi diamo anche quattro possibilità: l'UDC, l'Italia dei Valori, la sinistra radicale, vale a dire Rifondazione, ma non solo, oppure nessuna alleanza. Credete che il Partito Democratico possa andare da solo? Dovete votare su radio24.it, nella home page c'è bianco o nero, oppure il sole24ore.com. Devo dire che già siete tanti a votare e per ora prevale nessuna alleanza o l'alleanza con l'Italia dei Valori attorno al 30%, l'UDC è al 25%. Ne parleremo poi più avanti alle 8:30, ora la lettura dei giornali. Legal Mail, la migliore posta elettronica certificata. È un prodotto InfoCert. Vi presenta In Primo Piano. Sono tanti i temi che trovate, il caso Marrazzo, ma non solo, la politica, il PD e poi la sentenza Mills con le annesse questioni politiche che ci sono inevitabilmente sui giornali. Giudici e TV, il Premier attacca, così apre il Corriere della Sera, l'anomalia italiana sono i PM comunisti di Milano. Si riferisce della telefonata ieri in diretta a Ballarò, che vedremo. Corruzione, pena confermata Mills, questo è il titolo di Repubblica. Soffro troppo, chiudo qui. Marrazzo si dimette. Questa è l'apertura invece della Stampa e anche del Messaggero. Marrazzo lascia, basta politica. La sapete l'ultima, torna Prodi, invece l'apertura del Giornale. Quindi meramente politica sul PD. Il Sole 24 Ore ha un'apertura su un tema molto importante, la stretta del credito. Stretta del credito in Europa, la Banca Centrale Europea per la prima volta dal 92 sono in calo i prestiti al settore privato. E poi ovviamente lo vedremo. Voglio partire dai tanti commenti e i titoli che trovate ancora sul caso Marrazzo, perché in realtà molti giornali aprono su Mills, come il caso del Corriere della Sera, ma poi le prime pagine dei giornali sono dedicate proprio alla vicenda dell'ormai ex governatore Marrazzo. Una sofferenza estrema, mi dimetto, così si legge sul Messaggero. Il vice Montino legge la lettera: finché ho potuto ho operato per il bene della comunità. E ci sono già anche molti in retroscena, come sul Corriere della Sera il fatto che Marrazzo stesse per andare in abbazia, in convento, a ritirarsi per un mese. L'amico abate verrà da noi, parla da Monte Cassino Pietro Vittorelli, 46 anni, dal gennaio 2008 è l'abate ordinario dell'abbazia di Monte Cassino, definito in questo articolo di Fabrizio Caccia come un suo amico, un amico di Marrazzo, un pastore di anime e da subito, da quando lo scandalo venerdì è deflagrato, vicino all'ex governatore. Se ieri non ci fossero stati i giornalisti, scrive Caccia, lo avrebbe accolto subito tra i monaci della sua abbazia. Don Pietro Vittorelli, un giovane prete abituato a lenire le sofferenze altrui, faceva il medico prima di prendere i voti. E c'è un altro interessante commento che trovate sul Corriere della Sera, ma non solo, sulla figura della moglie di Piero Marrazzo, che è una collega della RAI, Roberta Serdoz. La prima uscita della moglie, amo Piero, ce la faremo. Rose, sorrisi e commozione, mostro che le donne non crollano. C'è anche un commento di Giulia Bongiorno, che è avvocato ma è anche onorevole, pubblicato una lettera, la Bongiorno, Roberta e la scelta di restare, così l'emancipazione va al di là della dignità. La scelta di Roberta Serdoz, sua moglie, una scelta sorprendente, scrive Giulia Bongiorno in questa lettera pubblicata dal Corriere della Sera. Di fronte a un tradimento, qualunque tradimento, si tende a ritenere che una donna abbia una sola alternativa, tutelare la propria dignità chiudendo il rapporto, oppure custodire l'unità familiare e la sua immagine. Questo in teoria. Roberta Serdoz, che ha un lavoro di giornalista, una carriera, una vita sua, avrebbe potuto lasciare il marito, avrebbe potuto dirgli di fare le valigie o decidere di andarsene, anzi sarebbe stata la scelta più ovvia, quella che ci saremmo aspettati. E invece, scrive Giulia Bongiorno, secondo lei ha fatto una vera scelta di emancipazione, dicendo appunto rimango con Piero Marrazzo. Tanto che addirittura il quotidiano nazionale mette la foto di Marrazzo in prima pagina, ma anche la foto della moglie Roberta Serdoz. Il titolo di apertura di prima pagina è Moglie Coraggio. C'è da dire che però, lasciando un po' questi commenti edulcorati sulla vicenda, rimane invece tutto l'aspetto dell'inchiesta, l'aspetto anche torbido, se volete, l'aspetto dei nuovi gialli, vale a dire il giallo su i due politici, che ieri vi avevo anche citato qua e là, insomma si fanno già i nomi di possibili nuove persone che sarebbero finite in questo presunto giro di ricatto, come a dire che in realtà sarebbe stato un sistema di ricatto più ampio. Così scrive per esempio Repubblica, Carlo Bonini, giallo su un video con due ex ministri. Le accuse dei Viados, la banda dei carabinieri infedeli agiva dal 2007. Qui ci sarebbe la rete nella quale sarebbero finite altre persone. Questo secondo Repubblica, ma se andiamo su altri giornali come Il Secolo XIX, ci si fa sempre più espliciti. A pagina 3 Il Secolo XIX titola: nel giro dei trans altri politici, calciatori, un conduttore TV. Quasi si legge del fatto che i carabinieri abbiano in passato chiuso un occhio con un importante esponente del PDL sorpreso in compagnia di un trans, e poi il coinvolgimento in un giro di ricatti di altri due politici locali, uno del PDL, uno del PD, un giornalista romano, un noto conduttore televisivo, il tutto condito dalla presenza nelle alcove delle trans anche di alcuni calciatori. Volete essere ancora più espliciti? Anche se nomi non ne troverete sui giornali, ve lo dico subito. Il Riformista in prima pagina: in Parlamento il terrore transversale. Si gioca anche con le parole in questo articolo di Fabrizio D'Esposito. Il transatlantico e a lei in Parlamento, mai luogo fu più evocativo come questa volta, lì dove il tritacarne mediatico si è messo in moto di nuovo. Il nuovo venticello che si è abbattuto ieri a Montecitorio si è scatenato dopo le segnalazioni apparse su Repubblica, Giornale, Il Corriere, soprattutto Libero. Su quest'ultimo, ieri ve l'ho letto, vi ricordate, c'è la cronaca di un incontro tra due giornalisti di Maurizio Belpietro e Gian Guarino Cafasso, il pusher dell'inchiesta poi stroncato da un'overdose. A luglio, sul micidiale connubio tra coca e trans, disse: io li posso rovinare, cioè dei clienti tra i politici, tra cui uno grosso, che lo chiamano chiappe d'oro per come gli piace. E ovviamente D'Esposito si fa la domanda che un po' ci siamo fatti tutti: chi è Chiappe d'Oro? Siede in Parlamento? Tanto che all'interno il titolo a pagina 3 del Riformista è questo: caccia a Chiappe d'Oro, due nomi nel tritacarne. Per tutta la giornata di ieri i nomi di due presunti frequentatori di Via Gradoli si sono inseguiti. Scrive D'Esposito: sono notissimi, uno di destra, l'altro di sinistra, uno del PDL provenienza N, l'altro del PD, entrambi parlamentari, e ci fermiamo qui ovviamente. Quello che dice il Riformista è che i due nomi non comparirebbero comunque nell'inchiesta che riguarda Marrazzo. In realtà si tratterebbe di due vecchi fascicoli ritornati a galla con la storia di questi giorni. Ma davvero, insomma, come dire, il tritacarne mediatico va avanti. Questo, abbandonando il Riformista, la prima pagina dell'Unità è proprio dedicata al caso Marrazzo, fa il parallelo tra Marrazzo e Berlusconi. Lui si è dimesso, questo è il titolo con la foto di Marrazzo, addio alla politica. E invece sul fatto Mills, Berlusconi e la corruzione, scrive l'Unità, anche in appello 4 anni e mezzo per l'avvocato Mills, il premier gli fece versare $600,000. Questo mi permette di andare appunto all'altro argomento che trovate certamente sui giornali, vale a dire la sentenza in corte d'appello, la condanna a 4 anni e 6 mesi all'avvocato inglese Mills per corruzione in atti giudiziari. Che succede? Per esempio su La Stampa parla Gaetano Pecorella, uno degli avvocati di Berlusconi. È una sentenza politica. Pecorella: volevano colpire Berlusconi senza che potesse difendersi. In questa intervista Paolo Colonnello, Dice Pecorella, se fossimo in un paese normale, una sentenza del genere non influirebbe affatto sulla vita politica del paese. Invece sono pronto a scommettere che qualcuno, tanto per fare un nome, Antonio Di Pietro, non si lascerà sfuggire l'occasione per gridare che anche il Premier è stato condannato. E poi, questa è una sentenza politica. Però alla domanda di Colonnello, ma se c'è un corrotto ci deve essere anche un corruttore? No, dice Pecorella. Anche i giudici del processo Mills avrebbero potuto percorrere la strada dei loro colleghi impegnati nel processo Fondi Neri Mediaset, dove pure Berlusconi è imputato, e scegliere, come è avvenuto in quel caso, di sospendere interamente il processo e le posizioni di tutti gli imputati in attesa che la Consulta si pronunciasse sul lodo Alfano. Invece si è scelto appositamente di gestire questo processo come un meccanismo di condanna politica senza alcuna possibilità di difesa giudiziaria. E tra l'altro che succede? Beh, chi ha visto ieri Ballarò avrà visto che insomma Berlusconi ha preso il telefono e ha telefonato in diretta. Un Berlusconi, come abbiamo sentito anche in GR24, molto combattivo. Leggo dal Corriere della Sera: il Cavaliere chiama Ballarò, l'anomalia sono i giudici comunisti, ho assistito al festival delle falsità della sinistra, adesso voglio rispondere. Poco dopo le 23 Berlusconi telefona e dice: i pubblici ministeri sono la vera opposizione dentro il paese, vi ricordo che la TV pubblica è pagata coi soldi di tutti gli italiani, non per trasmettere solo programmi di sinistra che attaccano sempre una sola parte politica. E poi il conduttore, l'esordio, Giovanni Floris: lei fa dei processi pubblici nei miei confronti senza contraddittorio nella TV pagata da tutti i cittadini, le ricordo che la televisione non è sua. E ancora sul caso Marrazzo: non ho fatto alcun intervento, mi ha informato mia figlia Marina del video rifiutato da Mondadori, a quel punto ho chiamato Marrazzo, gli ho dato il numero di telefono dell'agenzia che deteneva questo materiale. E poi anche la battuta finale su come sta: sono a casa con la scarlattina, ha detto a Floris, ma se viene qui sono felice di attaccargliela. Un Berlusconi combattivo, e tra l'altro è la prima pagina sul Fatto, trovate questo tema. Il Fatto, per la verità, apre sui soldi a palate per i giornali finti, è un tema di cui ci siamo occupati peraltro lunedì. Mills è colpevole, ora tocca a Berlusconi. Peter Gomez a pagina 3: Mills colpevole anche in appello, Berlusconi deve andare in aula, ma il Cavaliere punta alla prescrizione. Questo è il titolo. In primo piano. Pace tra Berlusconi e Tremonte, così si legge a pagina 5 del Sole 24 Ore, ma trovate un po' il resoconto di tutti i giornali del nuovo summit che c'è stato ieri a casa del Premier ad Arcore. Il ministro guiderà il comitato di politica economica, forte rapporto col Premier. Il compromesso alla fine che è stato trovato, scrivono Isabella Bufacchi e Barbara Fiammeri. Giulio Tremonti presiederà un comitato interno al PDL per la politica economica, di cui faranno parte gli esponenti di punta del partito, ministri, coordinatori, vertici dei gruppi parlamentari. E tra l'altro anche sul Foglio il titolo del fondo in prima pagina è: Tremonti ottiene la guida di una cabina di regia, ma la vittoria è del Cavaliere, secondo il Foglio di Giuliano Ferrara. Si legge anche del Fatto che le velate minacce di Bossi dei giorni scorsi erano state subito ridimensionate dagli interlocutori perché interpretate per quello che erano, vale a dire strumentali alle trattative per le regionali. E veniamo al PD. Ci sono tantissimi commenti, soprattutto sul possibile strappo di Francesco Rutelli, che è pronto a uscire dal partito proprio per la sua anche svolta, a suo dire troppo a sinistra, dopo l'arrivo dopo la vittoria di Bersani. Il titolo del giornale l'abbiamo visto anche prima, è molto, molto esplicito: la sapete l'ultima, torna Prodi. Contrordine compagni, Bersani riprova col professore e l'ammucchiata russa. Rutelli non ci sta, si rifugia al centro. C'è un interessante articolo di Alberto Statera su Francesco Rutelli, ma trovate dei profili su Rutelli un po' ovunque. Definito sostanzialmente non più Cicciobello, ma ha difficoltà a scrollarsi quello, i soprannomi di Zelig e di Frog Hopper, letteralmente rana saltatrice, per il numero di salti di partito che ha compiuto abilmente nella sua vita e si dice gli abbia fatto collezionare a un certo punto persino una tessera del Partito Socialdemocratico. Radicale da giovanetto, beniamino di Marco Pannella, poi verde, margheritino, democratico. Lui si attribuisce forse per difetto solo 4 salti in attesa del quinto verso il prossimo grande centro. Una cosa è certa: se si discute della prima e prossima scissione del PD, mai per un giorno, scrive Statera, nella sua vita Francesco Rutelli è stato un uomo di sinistra, fino a quando sgambettava al seguito di Pannella, quando si batteva per l'aborto e strepitava contro il Vaticano di Marcinkus, o quando l'ex sinistra lo lanciava come sfidante di Berlusconi. Tra l'altro... E in prima pagina del manifesto Palombella Bianca c'è Rutelli, odore d'incenso nella svolta di Rutelli, a Milano l'annuncio del distacco, via dal PD per unire l'Italia operosa. Trovate vari commenti e vi ricordo che questo è il sondaggio nostro di oggi, parleremo del PD e di dove deve andare il PD secondo voi per tentare di tornare una forza che abbia i numeri per governare. Ci vogliono le alleanze, ha detto Bersani, con chi secondo voi dovrebbe allearsi il PD? L'UDC, l'Italia dei Valori, la sinistra radicale oppure nessuna alleanza? Votate sul sito radio24.it oppure il sole24ore.com e vi ricordo che ne parleremo alle 8.30. Voglio passare ai temi economici che trovate sul Sole 24 Ore. Non c'è molto tempo, ma una segnalazione si impone molto interessante. Beh, come detto, l'apertura e la stretta del credito in Europa. La Banca Centrale Europea per la prima volta dal 92 ha accertato, c'è uno meno 0,3%, scendono i prestiti al settore privato, è la prima volta da quando a partire dal 92 vengono censiti in modo continuativo gli andamenti dei prestiti europei. E dunque, insomma, è un dato ufficiale che conforta e conferma anche l'allarme che gli imprenditori da più tempo ribadiscono. Ma sotto questo articolo di Beda Romano da Francoforte sulla stretta del credito europeo che trovate a pagina 3, ne trovate un altro molto interessante di Giovanni Negri. Fondo antiusura anche per le famiglie. Di che si tratta? L'accesso al fondo antiusura potrebbe essere allargato anche alle famiglie, in particolare per fare fronte ai debiti contratti a tassi usurai per pagare gli alimenti in caso di separazione e divorzio. A questo obiettivo, ma non solo a questo obiettivo, punta un emendamento presentato alla Camera dal Governo in Commissione Giustizia nel corso dei lavori sul disegno di legge che si occupa di ridefinire alcuni passaggi della normativa antiusura. Il fondo, che è istituito per favorire appunto l'emersione del fenomeno dell'usura, può essere utilizzato da imprenditori, artigiani o commercianti, ma in questo emendamento si allarga la possibilità anche all'erogazione di mutui a favore delle famiglie se l'indebitamento a tassi illegali è stato contratto con uno strozzino per conservare l'abitazione oppure per adempiere agli obblighi giudiziali emessi nei procedimenti di separazione, divorzio, per pagare gli alimenti a favore dei figli non autosufficienti, per l'assistenza legale in giudizio a favore dei figli stessi. Insomma, una sorta di mutuo familiare tratto dal fondo. Interessante, ecco, un fondo antiusura anche per le famiglie che si sono indebitate e si sono indebitate purtroppo finendo in mani sbagliate per far fronte a questo tipo di spese. Voglio solo segnalare, in finale troverete il procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso, ieri ha fatto un'audizione, ha parlato della strage Falcone, ancora si riaprono insomma nuovi scenari su quelle stragi, ha detto: non escludo che ci sia stato per l'esplosione di Capaci una mano esterna alla mafia, qualcuno può aver appoggiato alla mafia. Trovate l'articolo più preciso e dettagliato sul Corriere della Sera, firma Giovanni Bianconi, ma in realtà un po' tutti i giornali riprendono queste frasi importanti del procuratore Grasso. Votate su radio24.it o sole24ore.com il sondaggio con chi deve andare il PD, lì trovate le 4 opzioni. Per ora vince ancora nessun legame, nessuna alleanza, vedremo. Sono le 8 e 18 minuti, eccoci qua a 24 mattino per parlare di economia. Xmatch, gli ETF di Credit Suisse, vi presenta Soldi e dintorni. Eccoci Deborah Rosciani. Alessandro, buongiorno. Buongiorno. Che bella camicina viola stamattina. Beh, così dici in onda, poi fuori onda dice ti avrebbero già cacciato da un teatro, da una televisione. Diciamo che non è esattamente il colore della comunicazione. Devo dire che però io a queste siccome cose non credo. Siccome essere superstizioni porta sfiga, mettiamola. Non si dicono queste parole alla radio del sfortuna, Sole 24 Ore. Sfortuna, no, sfortuna. Allora, oggi parliamo di debiti delle famiglie italiane, quindi abbiamo ancora una volta un tema molto delicato da affrontare, prendendo anche spunto, Alessandro, da quell'articolo del Sole 24 Ore che osservavi prima, stretta sul credito europeo, e questo è quanto ha monitorato ieri la Banca Centrale Europea. Per la prima volta in settembre, dal 1992, abbiamo i prestiti al settore privato in caro dello 0,3%. Ci deve confortare tutto questo? No, perché è, come dire, anche una percentuale che indica una situazione ancora di oggettiva difficoltà generale, ma noi parliamo delle famiglie, perché nei giorni scorsi avevamo avuto questo spunto dalla nuova inchiesta, ennesima inchiesta sull'andamento del settore pubblicata da Repubblica, debiti di famiglia, il 58% del reddito degli italiani se ne va in rate, il popolo dei risparmiatori non esiste più, ecco che cosa rischiamo. Il tema del dibattito è sempre quello, è vero che noi viviamo una situazione migliore rispetto al panorama internazionale, siamo i meno indebitati su scala mondiale, e allora perché ci continuano a dire che invece la situazione per molte famiglie sta cominciando a destare un certo allarme? Di tutto questo parliamo stamattina con Giampaolo Luzzi, autore del libro Siamo tutti debitori, come proteggere la nostra famiglia dai debiti e vivere economicamente sereni. Ma Luzzi fa anche tante altre cose, in primo luogo per esempio il suo lavoro è il recupero crediti e quindi la gestione di situazioni difficili familiari e aziendali è il suo pane quotidiano. Luzzi, buongiorno. Buongiorno Deborah, buongiorno ai radioascoltatori. Allora, percentuali, potremmo darne tante, ma so che lei in particolar modo ha focalizzato la sua attenzione su quanto indicava il bollettino di Banca Italia. Secondo lei, metteva in evidenza l'Istituto di Via Nazionale percentuali preoccupanti sullo stato di salute del debito familiare privato? Sì, quindi, tra l'altro anche piuttosto contraddittorie, perché appunto a fronte del fatto che il 58% del reddito va a coprire i debiti della famiglia italiana, il problema è che a distanza di un anno il bollettino economico del settembre 2008 indicava che era il 48%, quindi c'è stato un bel balzo nel giro di un anno e ci sta avvicinando alle medie europee che è al 93% attualmente. E però attenzione, in quest'anno di tempo c'è stato appunto un calo dei prestiti e dell'indebitamento, in ambito Italia la proiezione che dà per il 2009 è un -6%, non meno 0,6%, meno 6%. Allora, se i prestiti calano, e d'altra parte la crisi in cui si stanno trovando i mediatori creditizi, eccetera, stanno a dimostrare che calano, e com'è possibile che aumenta la parte di reddito delle famiglie destinate a pagare i debiti? E qual è la contraddizione italiana che da un po' di tempo sto cercando un attimo di denunciare? In realtà la situazione in Italia è piuttosto stramba, perché le famiglie indebitate sono relativamente poche. Da uno studio del Censis pare che 1.200.000 famiglie abbiano un mutuo e 3 milioni e qualche spicciolo di famiglie abbiano un prestito al consumo. Anche a sommarle insieme sarebbero 5 milioni e passa di famiglie. Chi c'è un mutuo sicuramente c'è anche un debito al consumo e viceversa, quindi magari saranno 4 milioni le famiglie indebitate, sono 24 le famiglie in Italia, quindi da questo lato siamo sicuramente poco indebitati. Il problema è che molte famiglie non stanno pagando altri impegni, non stanno onorando altri impegni, esatto, finanziari come le bollette. Perché siamo tutti debitori, proprio nel libro cercavo di spiegarlo esattamente, il concetto è questo. Poi ci sono le rate dell'assicurazione che si pagano a rate perché non ci si fa pagare il premio tutti insieme, e ci sono le bollette, acqua, luce, gas, il conguaglio del condominio, cioè le tasse, la TARSU, il problema in Italia vero è i bassi redditi. Ed è un problema che colpisce veramente in maniera trasversale, infatti. Tra l'altro, voglio dire, una situazione anche che è abbastanza presumibile pensare, purtroppo, che da qui al prossimo anno potrà peggiorare, perché noi oggi abbiamo migliaia di piccole e medie imprese che stanno chiudendo e che rischiano di chiudere. In un anno si sono polverizzati 557.000 posti di lavoro, e per questo motivo che la prossima emergenza vera potrebbe rischiare di essere quella del debito personale degli italiani. Le chiedo, Luzzi, però, chi vive una situazione di maggior difficoltà? Le famiglie che hanno già contratto dei debiti e che stanno via via peggiorando la loro situazione, o è emotivamente peggiore la situazione di chi non ha mai contratto debiti in vita sua e adesso deve anche affrontare questo nuovo modo di gestire il proprio bilancio familiare? Io penso in questo momento chiaramente chi ha un debito da pagare l'ha fatto magari senza la giusta programmazione, perché questo è poi probabilmente l'altra grande contraddizione che abbiamo in Italia. E c'è una forte parte di popolazione che potrebbe tranquillamente indebitarsi magari in questa maniera, incrementando la propria qualità di vita eccetera, ma che non lo fa perché ha paura genericamente del debito, ma per ignoranza non lo conosce, non sa gestirlo, e altri che invece in maniera avventata si sono buttati a indebitarsi e quindi adesso poi ne pagheranno le conseguenze. Io aggiungerei una cosa sulle crisi delle imprese. Le sofferenze delle imprese sono incrementate del 13%, sempre questo dal bollettino Banca d'Italia settembre 2009, e come sono incrementate del 3% le sofferenze delle famiglie produttrici, e invece per ora le sofferenze delle famiglie consumatrici non sono incrementate, anzi stanno a un leggero miglioramento. È chiaro che nel momento in cui aumentano le sofferenze delle imprese, le imprese arrivano a un punto di tensione tale per cui devono lasciare a casa le persone, e dopodiché questa sarà un'onda che, questa è la prima onda, poi lo tsunami arriverà fra un attimo anche sulle famiglie. Un domino. Mi interessa molto questo discorso che lei faceva sull'indebitamento intelligente. Mi chiedo se in questo momento ci siano anche le condizioni economiche per poter portare anche la formazione delle famiglie, la preparazione delle famiglie su questo terreno, o non è il momento? Secondo me il momento, tutto sommato, paradossalmente è proprio questo, perché magari in questo momento c'è una situazione di mercato più favorevole a sbilanciarsi, a fare determinati investimenti, investimenti che diventerebbero tanto più redditivi laddove magari venissero fatti appunto con un indebitamento consapevole e chiaramente gestito in una maniera opportuna. Il problema è che, escludendo la trasmissione che fa lei, questa la mattina e poi Salva Danaio, e qualche perla bianca e qualche mosca bianca che si trova in giro, non c'è informazione al riguardo. C'è una pubblicità massiva che invoglia a indebitarsi in maniera così leggera, e poi c'è del terrorismo psicologico che io ritengo l'uno quanto l'altro cosa assolutamente sbagliata. Però, Luzzi, c'è anche un altro problema, secondo me. Purtroppo non riusciamo ad approfondire molto, ma vediamo se riusciamo a dare una piccola ricetta di vita. Anche gli italiani hanno molto pudore a parlare delle proprie situazioni di difficoltà, fino a quando almeno non arrivano con l'acqua alla gola. So che lei nel suo libro dedica un apposito capitolo al tema della consapevolezza della famiglia quando si trova di fronte a problemi finanziari. Come si fa a ripartire? Consapevolezza che non c'è spesso e volentieri. C'è una situazione di non capire cosa sta cambiando e che si protrae per un certo tempo, per cui non viene cambiato il tenore di vita perché non ci si rende conto delle mutate condizioni, e quando poi finalmente si prende coscienza della cosa, e a quel punto lì spesso e volentieri si è un pochettino troppo oltre e si sono fatti dei passi avventati. Uno dei passi classici avventati è quello di indebitarsi per pagare un altro debito, usare la carta di credito, la revolving, per pagare e coprire un mutuo di un finanziamento. Situazioni che però spesso non hanno alternativa, Luzzi. Ma io penso che l'alternativa ci sia sempre, perché comunque i debiti non li combatti con un altro debito, i debiti li combatti parlando con i creditori, confrontandosi e spiegando la situazione, insieme trovando le soluzioni. Guardate che però farlo in via preventiva, dice lei, insomma. Sì, preventiva, prima di diventare un moroso conclamato con il bollino blu che tenta soltanto di sfuggire dalle proprie responsabilità e dai creditori. Guardate che c'è un'attenzione, una sensibilità fortissima oggi come oggi. Ci sono tutta una serie di situazioni, banche, finanziarie, che danno una serie di agevolazioni al debitore serio che ha intenzionato effettivamente a uscire dalla propria situazione. È chiaro che dovrà fare dei sacrifici, è chiaro che dovrà rivedere un attimino la propria situazione e le proprie, i principi di spesa, ma se si confronta con il creditore e non scappa, c'è assolutamente, la maggior parte danno assolutamente una mano, ma in maniera anche più inaspettata forse di quello che ci si immagina. Benissimo, Luzzi, devo salutarla purtroppo perché ho già rubato 30 secondi ad Alessandro Milan. Tutto questo è ben indicato nel suo libro Siamo tutti debitori, come proteggere la nostra famiglia dai debiti e vivere economicamente sereni. La ringrazio. Per chi vuole informazioni sul libro ci può scrivere a Salva Danaio, naturalmente. Oggi a Salva Danaio parliamo proprio del comprar casa, guida all'acquisto. Alessandro, ciao. Dobbiamo aggiornare la lista. Di chi? Dopo Giulietta e Romeo e le suocere, Sandra Raimondo ci hanno dato dei vecchietti del Muppet Show. È la più bella, secondo me. Un premio al signore che ci faremo ha scritto, che ringrazio. Io sono Miss Piggy e tu sei Kermit, naturalmente. Addirittura anche i nomi ti ricordi, vabbè. Le 8:34 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Le notizie in primo piano: sono almeno 6 tutti impiegati dell'ONU le vittime di un attacco avvenuto stamattina a Kabul, a una foresteria delle Nazioni Unite. L'attentato suicida è stato rivendicato dai talebani. In Italia l'avvocato britannico David Mills è stato condannato in appello a 4 anni e 6 mesi per corruzione in atti giudiziari e in serata, durante la trasmissione Ballarò, il premier Berlusconi ha telefonato in diretta per attaccare nuovamente i magistrati. La vera anomalia del paese, ha detto, sono i PM comunisti di Milano. Piero Marrazzo si è dimesso dalla presidenza del Lazio. Do troppa sofferenza, lascio, ha scritto nella lettera di dimissioni. Intanto almeno altri due politici potrebbero essere finiti in passato in un giro di ricatto per avere frequentato transessuali. Infine per il calcio, stasera c'è il campionato con la 10ª giornata in cui spiccano Juventus-Sampdoria, Napoli-Milan, Genoa-Fiorentina. Giocherà invece domani l'Inter contro il Palermo. E allora, visto che ieri il sondaggio era proprio su Piero Marrazzo, sulle dimissioni, il 75% di voi chiedeva è giusto che si dimetta, oggi invece parliamo del PD, il nuovo PD Corso Bersani e delle possibili alleanze. Nissan City Cars GPL. Welcome to Simplicity. Vi presenta Bianco o Nero, il sondaggio di Radio 24. Il PD con il neosegretario Bersani, secondo voi con chi si dovrebbe alleare per tornare a essere, se vuole tornare a essere una forza di governo? Vi diamo quattro possibilità sul sito radio24.it o ilsole24ore.com. Con l'UDC? Oppure con l'Italia dei Valori? Oppure con quella che abbiamo identificato, la sinistra radicale, insomma Rifondazione, ma Sinistra e Libertà, Sinistra Democratica? Oppure nessuna alleanza? Devo dire che per ora il 35% di voi sta votando in prevalenza su questo, nessuna alleanza. Il 32% l'Italia dei Valori, il 24% l'UDC, il 10% la Sinistra Radicale. Io vorrei chiedere subito a Peppino Caldarola, che saluto, buongiorno. Buongiorno. Giornalista del Riformista, di Libero. Le chiedo, Bersani dice nuove alleanze, Rutelli pare che se ne stia già andando, insomma il percorso è segnato, uno spostamento troppo a sinistra. Oggi il giornale titola: sapete l'ultima, sta tornando Prodi, la mucchiata rossa, è finito l'esperimento bipolarista, è finita la vocazione maggioritaria del PD che voleva Veltroni? Beh, sicuramente è finita la vocazione maggioritaria, almeno in un senso preciso, cioè come anticipazione di un sistema bipartitico, perché il sistema bipartitico non è decollato perché il PD non ce l'ha fatta, perché poi, malgrado il drastico ridimensionamento nel numero dei partiti, i partiti non sono due in Italia, sono 5 o 6. Non è finita la vocazione maggioritaria nel senso di costruire attorno al PD, penso che questo sia l'idea di Bersani, diciamo una formazione riformista che voglia egemonizzare, anche se la parola non si usa più, voglia egemonizzare il suo campo. Per far questo Bersani ha bisogno di alleanze, però ha bisogno di alleanze omogenee, quindi tutto il contrario dell'unione di Prodi in cui, diciamo, si era fatto il pieno degli oppositori di Berlusconi. Bersani lascia intendere, con questa differenza che sottolinea fra il concetto di opposizione e quello di alternativa, di puntare più sull'alternativa, più sui contenuti, e sui contenuti di costruire delle alleanze. Le chiedo, chi dovrebbe secondo lei imbarcare, se si può usare questa espressione, l'esperienza politica, chi dovrebbe lasciar fuori? Oggi Bersani si incontra con Di Pietro, per esempio, il primo degli incontri Italia dei Valori. Beh, guardi, io penso che debba lasciar fuori proprio Di Pietro, nel senso che per costruire una, diciamo, una maggioranza riformista di governo, è chiaro che un punto di riferimento possono essere sicuramente i moderati. Lei prima accennava alla probabile scissione di Rutelli, quindi si può immaginare che accanto all'UDC, al di là dell'UDC, oltre l'UDC, si formi un coagulo di moderati riformisti che possono essere l'alleato principale del PD. Un ragionamento si può fare sicuramente con la sinistra radicale, che tuttavia non considera una iattura la prospettiva di governo. Mi pare molto difficile viceversa andare con Di Pietro, perché l'asse politico di Di Pietro, oltre il giustizialismo, non è comprensibile. Io questa mattina ho ascoltato anche a Omnibus alcune sue proposte, come dire, di carattere economico, c'è tutto il contrario di tutto, c'è l'allungamento dell'età pensionabile, insomma siamo di fronte a una formazione politica che ha bisogno di chiarirsi molto. Lei dice via Di Pietro. Tra l'altro Mario Giordano proprio oggi su Libero dice: caro nuovo segretario a Bersani, per prima cosa scarica Tonino. Glielo dico perché ci stanno ascoltando, li voglio salutare, due esponenti politici di due forze politiche che sono insomma alla finestra a vedere dove va il PD e dove possono anche andare i rispettivi partiti. Sono Michele Vietti, che saluto, dell'UDC, buongiorno Vietti. Buongiorno. E Paolo Ferrero, segretario nazionale di Fondazione Comunista, benvenuto, buongiorno Ferrero. Grazie, buongiorno. Senta, chiedo innanzitutto a lei, Ferrero, cosa ha fatto? Ha stappato una bottiglietta di champagne quando, non so, di spumante, magari quando Bersani ha vinto, cioè la fine di quella vocazione maggioritaria? C'è la possibilità di rientrare anche per la sinistra radicale a vedere un futuro di nuove alleanze? Io ho considerato positivamente la vittoria di Bersani, intanto per l'Italia, perché con l'idea del PD di andare da solo voleva dire lasciare a Berlusconi il governo del paese per i prossimi 20 anni e anche per i suoi figli, diciamo, perché è del tutto evidente che mentre l'accrocchio che sta tra Lega Nord e Popolo delle Libertà, che faccio notare è l'unica alleanza di destra in Europa che non ha confini a destra, cioè che mentre sul centro-sinistra si pongono 1000 problemi, di là si vada da posizioni razziste fino al centro, il PD da solo sarebbe destinato a perdere le prossime elezioni per i prossimi 30-40 anni, non è che ci sono particolari elementi di cambio. E però Ferrero non potrà mica tornare quell'unione che abbiamo visto naufragare, in cui si sono presi i voti per governare, ma poi governare non si è visto che non si è riuscito. Lei ne ha fatto parte, insomma, come ministro. Sono molto d'accordo con lei. Ho considerato quell'esperimento non serio, nel senso che l'accordo che c'era stato non è stato rispettato e quindi non è riuscito a dare un indirizzo che era quello promesso al Paese. Ed è per questo che io credo che in Italia il punto è oggi, con questa legge elettorale, di costruire una coalizione che permetta di battere Berlusconi e che abbia al suo interno una coalizione di governo più omogenea. E devo dire, ad oggi io non vedo le condizioni per governare con Bersani, e quindi, mentre sono molto interessato a costruire una coalizione per battere Berlusconi, i cui contenuti politici, in cui i contenuti dell'azione di governo considero molto nefasti per il Paese, sia sul piano della democrazia che sul piano dei rapporti sociali, che dell'imbarbarimento delle culture del Paese, penso proprio al razzismo. Sono molto interessato a questo, penso che non si possa far diventare questa un accordo di governo. Sì, c'è da dire che qualcosa posso aggiungere un elemento. Io penso che il punto vero da porre a Bersani è se si riesce a superare questo bipolarismo coatto prodotto di una legge elettorale che non corrisponde agli orientamenti politici italiani. E secondo me va fatta una battaglia, come propone anche l'UDC, per arrivare a un sistema elettorale di tipo tedesco che permetta alle grandi famiglie politico-culturali di questo paese di presentarsi col proprio volto alle elezioni e poi di fare il governo su quella base. Questo ritengo sarebbe positivo sul versante del centro, perché l'UDC ha uno spazio politico vero, sul versante del centro-sinistra e della sinistra, ma sarebbe positivo anche nel centro-destra, perché il tenere assieme, diciamo così, Pisano e Borghezio è puramente frutto di un accordo di potere e di una legge elettorale che però regge insomma, per il momento. Lo vediamo tutti i giorni che non è splendido, e in ogni caso dal mio punto di vista è nefasto per il paese. Questo un sistema elettorale che permetta l'articolazione, poi se Pisano e Borghezio vorranno stare assieme anche dopo lo faranno liberamente, ma non costretti dal fatto di non avere Ferrero al governo. Voglio andare da Vietti, ricordando che il sondaggio con chi si deve alleare per voi il PD, per ora il 34% dice nessuno, con nessuno, rimanere così. Il 33% dice l'Italia dei Valori, cioè l'alleanza che c'è già. Il 23% l'UDC, il 10% la sinistra radicale. Vietti, Caldarola ha detto via Di Pietro. Mi sembra che sia la posizione anche sua e di anche insomma del, come esponente dell'UDC, cioè con Di Pietro no, alleanze sì, ma con Di Pietro no. Questo. Ma io sono molto d'accordo con quello che ha detto Caldarola. Mi stupisce che il 34% degli elettori del PD voglglia perdere all'infinito, perché è ovvio. Degli ascoltatori, non... voteranno anche quelli del, sì, del popolo. Allora, forse erano tutti ascoltatori del PDL, evidentemente. Ecco, vogliono far perdere il PD. Perché è chiaro che la scelta di andare da soli vuol dire perdere all'infinito. No, io sono d'accordo con Caldarola, la vittoria di Bersani è la definitiva archiviazione della cosiddetta vocazione maggioritaria del PD, con cui noi abbiamo polemizzato, diciamo, politicamente ovviamente, noi alle scorse elezioni politiche ci siamo candidati da soli senza fare alleanze né con il PDL né con il PD, proprio dicendo che quel bipolarismo in cui da una parte la destra era egemonizzata da Berlusconi con l'alleanza con la Lega, ma dall'altra parte Veltroni faceva il verso a Berlusconi e si parlò addirittura di veltrusconismo, per dire che c'era questa pretesa dei due leader di esaurire tutta l'offerta politica del nostro schieramento nazionale. Ricordo che solo un anno e mezzo fa, ormai sembra passato un decennio, ma è passato un anno e mezzo, ci hanno spiegato, e tutti i mezzi di informazione in qualche modo andavano dietro questa deriva di un bipolarismo che diventava bipartitico, che non c'erano alternative, o si votava per Berlusconi o si votava per Veltroni, e Veltroni scimmiottò a lungo Berlusconi nel cercare di fare il suo contrario. Ovviamente, come tutti quelli che si mettono a concorrere sul terreno di Berlusconi, perse in modo clamoroso. La cosa paradossale poi è che i due pretesi esponenti del bipartitismo in realtà si legarono ciascuno ad una versione demagogica e populista che stava accanto a loro. Berlusconi si legò alla Lega e Veltroni, dopo aver detto che non faceva più alleanze con la sinistra, si legò a Di Pietro, pensando ad un'alleanza puramente strumentale che portasse voti. Questo è quello che è stato, diciamo, fino adesso. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, con chi deve andare il PD? Vietti, le chiedo. Oggi Bruno Tabacci, in un'intervista all'Unità, Bruno Tabacci dell'UDC, ha detto: Casini non sia geloso, allarghiamo il centro e esploriamo nuove alleanze. Sì col PD? Sì, faccia concludere soltanto il ragionamento, che non era puramente retrospettivo, ma voleva arrivare proprio ad una conclusione, cioè il fatto che il PDL sia imbarcato in un'alleanza in cui è egemonizzato dalla Lega, perché la Lega detta l'agenda di governo, la Lega dice le parole d'ordine, la Lega gestisce i settori più importanti della politica di questa maggioranza, dall'immigrazione all'agricoltura. Sì. E dall'altra parte il PD in questo anno e mezzo di opposizione si è andato a rimorchio da Di Pietro, è proprio il fallimento del sistema. Allora, benissimo che Giordano dica a Bersani liberati di Di Pietro, ma qualcuno dovrebbe dire, non credo lo possa fare Giordano, ma anche a Berlusconi liberati dalla Lega, perché se vogliamo ricondurre il sistema ad una normalità, bisogna che, come in tutti i paesi d'Europa, le frange demagogico-populiste siano lasciate Ma se così governa, certo, con le tensioni, con le frizioni, con i compromessi, con le alleanze. Ma governa come? Governa con un'alleanza che non ha riscontri con maggioranza che analoga a quelle dei partiti popolari europei. Io sono d'accordo con Ferrero, cambiamo la legge elettorale, prendiamo la legge elettorale tedesca e questo produrrà 3, 4, 5 partiti di aree culturali omogenee, le quali consentiranno un'alternanza, ma un'alternanza che, come in Germania, lascia fuori le estreme, mette dei confini. Questo bipartitismo, Caldarola, vorrei tornare a dare, questo bipartitismo proprio in Italia è una cosa, no? Siamo anni luce, non entra nella cultura delle persone, no, non, è un bene o un male, non lo so, è un dato di fatto però. È un dato di fatto che il sistema bipartitico in Italia non ha trovato consensi, perché ci sono troppe differenze politiche, troppe sfumature, ci sono culture non aggregabili e quindi mi pare abbastanza difficile immaginarsi un'evoluzione bipartitica del sistema, mentre mi pare confermata l'evoluzione bipolare, nel senso o di qua o di là. Però le chiedo, perché c'è anche Ferrero, non ha notato in Ferrero, e poi lo chiede anche Ferrero, molti ascoltatori per esempio l'hanno notato, una voglia di, come dire, di come prima istanza l'anti-berlusconismo, cioè dobbiamo battere Berlusconi, questo è un po' il primo punto all'ordine del giorno, insomma, trovare il modo di, e poi dopo si vedrà. Ma io prendo atto di una situazione, che il modo di combattere Berlusconi dell'ultimo anno e mezzo non ha portato ad alcun risultato, perché poi la polemica politica è diventata poco politica, si è incentrata sui vizi privati del Premier e non ha spostato, secondo me, un voto da una parte e dall'altra. Quindi la vera soluzione sarebbe quella di provare a battere Berlusconi fornendo al Paese una prospettiva diversa da quella di Berlusconi. E noi dobbiamo immaginarci innanzitutto, come dire, una situazione in cui l'obiettivo politico di battere un governo ce lo si propone a partire dalle elezioni, non a partire da fenomeni di opinione pubblica o da fenomeni addirittura di piazza, le manifestazioni, per carità, tutte utili, ma il problema politico è quello di avere non le piazze piene ma le urne piene. Per avere le urne piene bisogna convincere delle persone. Il mondo che segue Berlusconi è un mondo affollato. Per questo, Paolo Ferrero, non c'è nella sua rivendicazione dire, certo, legittima, per se vogliamo andare al governo bisogna battere Berlusconi, insomma, anche questo è un dato di fatto. Però molti hanno sottolineato, ma insomma sembra che il primo punto del programma sia questo, insomma, buttare via Berlusconi. E vabbè, così non si va da nessuna parte. Dal mio punto di vista il nodo è questo, che il governo Berlusconi effettivamente sta facendo dei guai molto consistenti, perché sta demolendo il sistema di garanzie costituzionali, l'equilibrio dei poteri, sia magistratura sia giornalisti, introduce elementi di inquinamento nel dibattito, come dire, adesso pensiamo a questa roba del razzismo, è stata sdoganata dalle parole degli esponenti di governo, questo non è che non produce veleni nel corpo sociale. Terzo, c'è una politica economica e sociale, la dico brutalmente, che dai soldi alle banche, adesso si appresta a dare i soldi alle imprese, mentre c'è un bel po' di famiglie e di lavoratori che non arriva alla fine del mese, non ha nessuna garanzia, va alle mense della Caritas, che è diventata l'unica cosa. Cioè io penso veramente dice, che il primo bisogna finirlo con questo governo, questo è il primo insomma, cerca le alleanze così, ecco. Da questo punto di vista io penso di non poter governare con Padoa-Schioppa, perché l'ho verificato, ci sono due impianti di politica economica, sociale, molto diversi. Ma io vorrei poter avere Padoa-Schioppa a governare al posto di Berlusconi, potendo avanzare le mie critiche a Padoa-Schioppa, non governarli assieme. Ma non è che sono indifferente al fatto che ci sia una linea di destra estrema o una linea moderata, diciamo così, a governare questo paese. Io penso oggi di non avere, io comunista di Rifondazione, i voti, la maggioranza per governare sull'impianto che propongo io, ma non è che sono indifferente al fatto di avere un ministero degli interni che si comporta come si comporta, per cui non scioglie i comuni infiltrati dalla mafia e dall'altra parte considera gli immigrati come dei delinquenti. Questo no, è stato chiarissimo, ma io mi devo fermare. Con chi deve andare il PD per ora? Il 34% ancora dice con nessuno, il 33% dice con l'Italia dei Valori, il 23% con l'UDC, il 10 con la sinistra radicale. Continuate a votare. Saluto Laura Marchesi, Alessandro Marcotulli in redazione, Peter Bescapè in regia, e con 24 Mattino ci troviamo domani alle 7:30. Ora la linea Oscar Giannino. Bianco o nero?